Benvenuti al primo appuntamento con il podcast dedicato alla lettura del romanzo Ex Tenebris, un capitolo alla volta. Il mio nome è Stefano Lanciotti e sono l'autore. Scrivere non è la mia sola attività, e anzi, non è neppure la principale. Il mio lavoro è quello dell'ingegnere elettronico, e la scrittura è una passione che coltivo come hobby, al quale cerco di dedicare tutto il tempo che mi rimane dopo il lavoro e la famiglia. Sono nato a Roma nel 1967, in piena generazione X, diciamo, e non ho mai mostrato nessun tipo di attitudine artistica. Non sapevo disegnare, dipingere, suonare o cantare. Però ho sempre avuto facilità nello scrivere. I pensierini prima, gli elementari, i temi dopo, alle medie, alle superiori, mi uscivano di getto e in genere li finivo molto prima di tutti i miei compagni di classe. Nello stesso tempo amavo la lettura e quindi non credo ci sia da meravigliarsi che la prima opera d'arte, un mini romanzo scritto e illustrato a quattro mani insieme alla mia amichetta, risale addirittura alla prima media. Si chiamava, se non mi ricordo male, I Pirati dell'Atomo, e se mai dovessi diventare famoso, penso che i miei eredi ci ricaveranno una bella sommetta vendendola all'asta. Scherzi a parte, in realtà quello fu solo il primo di molti miei tentativi di scrivere un romanzo. Tentativi che però mi portarono soltanto a scontrarmi con il mondo dell'editoria, completamente impermeabile ai miei tentativi di entrarmi. Tutto cambiò nel 2011. Quando decisi di autopubblicare gratuitamente uno dei vari romanzi che si erano accumulati nel mio cassetto. Si intitolava Phoenix, che significa fenice in tedesco, ed era un thriller spionistico. Il motivo per cui decisi di distribuirlo gratuitamente era perché volevo che avesse una diffusione abbastanza ampia da garantirmi un feedback. Volevo sapere, infatti, se quello che scrivevo era buono o no. E non volevo farmelo dire da amici o familiari, ma da veri lettori che non mi conoscevano di persone e che quindi sarebbero stati, speravo, sinceri. A Roma si usa l'espressione fare il botto per descrivere qualcosa che è un successo improvviso e soprattutto inaspettato. Ebbene, Phoenix fece il botto. Dopo pochi giorni della pubblicazione, centinaia di persone lo stavano scaricando e ben presto cominciavano ad arrivare le recensioni. Era piaciuto un sacco di persone e nel frattempo i download erano diventati migliaia. Incredulo, decisi di pubblicare a pagamento il seguito intitolato Nemesis e per mia sorpresa tantissima gente lo comprò, veramente tantissima, vendette circa 3.000 copie nel giro di pochi mesi. Successivamente, nei mesi successivi, pubblicai anche Ex Tenebris, che è il romanzo del quale oggi iniziamo la lettura, e La principessa delle tenebre, che era il suo seguito. E anche questi due ottennero un grande successo. Ero entrato nel mondo editoriale, se così possiamo dire, dalla porta di servizio, anche se alla grande, ma dopo poco anche questo cambiò, perché un giorno mi arrivò una mail da parte di un grande editore, Newton Compton, che mi chiedeva di ripubblicare i miei thriller. E così, una volta presi gli accordi, il romanzo che avevo pubblicato gratuitamente giunse in libreria con una bellissima copertina e un titolo nuovo, venne chiamato Israel Operazione Tel Aviv. Riscosse anche qui un notevole successo. E l'anno successivo toccò l'intera trilogia, che era Israel, Nemesis e Hydra. Successivamente mi fu proposto un contratto anche per la mia produzione fantasy, che nel frattempo aveva raggiunto la quarta puntata, ma per quella non ero molto convinto, scelsi la libertà di continuare a gestire tutto da me. Ex Tenebris rimane un titolo gratuito sotto forma di book e i romanzi successivi hanno venduto quasi 30.000 copie. 30.000, sì, qualche volta faccio difficoltà io stesso a crederci. E questo ne ha fatto, credo, quello che ne so, di gran lunga la saga fantasy autopubblicata di maggior successo in Italia. Direi che adesso è ora di iniziare la lettura. Nel prossimo podcast vi racconterò com'è nata l'idea del libro. Ex Tenebris di Stefano Lanciotti. Prologo. L'incenso si consuma lieve, liberando un profumo dolce e persistente. Le fiammelle dei ceri ondeggiano cogliendo un refolo di vento che si infila nella stanza attraverso fessure invisibili. L'uomo al centro del circolo alza le mani senza mai staccare gli occhi dalle pagine consulte dell'antico tomo che torreggia sul leggio di fronte a lui. Intona un canto in una lingua non fatta per la voce umana. Anche il ritmo sincopato stride, inadatto a essere ascoltato. Ma l'uomo è solo e nessuno può udirlo. il resto del mondo confinato all'esterno. Attorno a lui si stringe l'ombra, appena dissipata dalla pallida luminosità delle fiammelle che danzano sui ceri, intrecciandosi con il buio e disegnando strane forme sul suo viso. Le pareti, pur così vicine, sono indistinguibili dalle tenebre, e la sua voce echeggia come se lo spazio si fosse dilatato al di là delle possibilità fisiche. L'oscurità ad un tratto sembra addensarsi alle sue spalle, ma l'uomo è troppo assorto nel rituale. I suoi occhi sono intenti a seguire i contorti segni tracciati sulle pagine ingiallite, le sue orecchie immerse nell'ascolto della nenia che va salmodiando. Il grumo di ombra si infittisce e comincia a prendere forma, incombendo lentamente su di lui. La tenue luminosità dei ceri tremola, come a contatto di un'improvvisa corrente gelida. L'oscurità si fa più fitta, assorbendo ogni singolo raggio di luce, come nutrendosene e traendone forza maligna. L'uomo ha l'improvvisa percezione di quello che sta accadendo e sgrana gli occhi, tentando di impedire al rituale di prendere forza. Esso costituisce l'unica barriera che può tenere l'ombra fuori dal cerchio. Una volta spezzato, ogni altra cosa sarebbe inutile. Una pressione della quale è acutamente conscio sta costringendo la luce all'interno del circolo e ne minaccia l'integrità. Gocce di sudore imperlano la sua fronte, mentre impegna ogni briciolo di forza nel rimanere immobile. Un improvviso colpo di vento, giunto da chissà dove, afferra la pagina consunta dove è tracciato il rituale, girandola con beffarda lentezza davanti a lui. Gli occhi dell'uomo si spalancano per il terrore e la sua voce si inclina. Per un singolo istante la stanza viene avvolta da un silenzio sepolcrale. E tanto basta. Capitolo 1. Thomas Travers parcheggiò la sua auto di fronte a una bella villetta circondata da un giardino molto curato dalle parti di Georgia Avenue, nella zona residenziale a nord di Washington DC. Era un uomo sulla quarantina, dall'aria un po' trasandata. I capelli brizzolati, ormai più grigi che neri, avevano bisogno di essere tagliati e le borse sotto gli occhi non miglioravano il suo volto pallido e scavato. I vestiti che indossava erano spiegazzati e davano l'impressione che li avesse indossati anche il giorno precedente. C'erano solo un paio di auto della polizia parcheggiate davanti alla villetta, a testimonianza del fatto che ormai il grosso delle rilevazioni era stato fatto. Anche i curiosi erano già andati via, tutto nella norma. Come criminologo, lui in genere arrivava sulla scena del delitto per ultimo. Si chinò per superare la fascia gialla con su scritto Police Line, Do Not Cross, e fece un cenno col capo al poliziotto di guardia. O'Brien, così gli pareva che si chiamasse, si sfiorò il cappello in un abbozzo di saluto militare. «Ispettore Bennett è dentro?» chiese, dando una prima occhiata all'ingresso. Il poliziotto annuì. La casa si presentava piuttosto ben arredata e tenuta, famiglia borghese. Lo colpì l'insolita quantità di libri, ce n'erano centinaia, allineati su librerie e scaffali. Si fermò a dare un'occhiata a qualche dorso di copertina. A differenza dei poliziotti, un criminologo, soprattutto se come lui specializzato in occultismo, considera sempre illuminante sapere cosa leggono le vittime. Economia, antropologia, sociologia, storia, di tutto. Afferrò un libro a caso e lo aprì. Lo ripose di lì a poco quando vide Adrian Bennett fare capolino nella stanza. Il suo volto tondo era più pallido del solito e sull'ampia stempiatura luccicava qualche goccia di sudore. L'ispettore si diresse verso di lui, caracolando sulle gambette corte che sembravano mettere in crisi l'equilibrio del busto, dominato dallo stomaco imponente. «Ti ringrazio per essere venuto», gli disse stringendosi la mano. Poi soggiunse in evidente imbarazzo. «Ho saputo che... insomma, mi dispiace molto. Se c'è qualcosa che posso fare per...» Le notizie non viaggiavano veloci solo nelle piccole città, a quanto pareva. Quella della sua separazione dalla moglie Catherine, avvenuta quella stessa mattina, aveva già cominciato a girare nell'ambiente. Non che giungesse inaspettata, dalla morte di loro figlia Eileen, un fagottino di appena qualche chilo portato via l'anno precedente da un male più grande di lei, il dolore aveva scavato un cratere nel suo petto e una trincea tra di loro. Si era detto mille volte che avrebbero potuto ricostruire il loro rapporto. Invece tutto era andato in frantumi e lui era ancora alla ricerca di un modo per rimettere insieme i pezzi della sua vita. «Sì, sì, grazie mille», tagliò corto. I suoi problemi dovevano rimanere fuori dal lavoro, se solo fosse stato possibile, anche se era più facile a dirsi che a farsi. «Dove è stato trovato il cadavere?» «Nello studio, seguimi». Si avviò lungo il corridoio e si fermò all'altezza di una pesante porta di legno massiccio. Tom lo raggiunse e si affacciò. Lo studio era molto diverso dal resto della casa e sembrava in qualche modo l'ambiente più vissuto. C'era una grande scrivania coperta di carte e di libri e due librerie colme all'inverosimile. Ma quello che lo colpì era lo spazio al centro della stanza, ottenuto probabilmente spostando di lato la scrivania. A terra c'era disegnata la sagoma del corpo ormai asportato, ma la scena era ben più complessa. Accanto alle poche linee che descrivevano la posizione dove era stato trovato il cadavere di Blake, c'era tracciato un circolo del diametro approssimativo di un paio di metri. All'interno del circolo era stata disegnata una stella a cinque punte. Ai cui vertici erano stati posti dei tozzi ceri di color fuliggine, un paio dei quali ora giacevano rovesciati di fianco. Un forte profumo di incenso proveniva da un braciame ormai spento. Tra l'entrata del circolo era stato posto un pesante leggio di legno massiccio, completamente ricoperto di una fitta ragnatela di simboli. Il piano del leggio era vuoto. A parte la rilevazione delle impronte e l'asportazione del corpo, tutto è rimasto com'era, gli disse Bennett. L'ispettore prese una cartellina appoggiata su un ripiano e gliela porse. Continuava i fogli con i primi risultati dei rilievi effettuati e alcune foto. Tom cominciò a studiare le immagini. Il cadavere di Blake era stato trovato diverso a terra, a faccia in giù. Le braccia erano allargate e le sue mani sembravano artigliare il pavimento, quasi avesse voluto scavare con le unghie la fuga dalla morte. La foto successiva era un primo piano del volto. Blake aveva gli occhi spalancati e un'espressione di terrore scavata nei lineamenti. «Cristo!» si lasciò sfuggire. «Ma siete sicuri che non ci fosse nessun altro dentro lo studio?» «Porta sbarrata dall'interno. Abbiamo dovuto sfondarla per entrare.» Adrian indicò un pesante chiavistello rotto. «E comunque non è stata trovata alcuna impronta che non fosse di Blake.» «Causa della morte?» «Sono in attesa dei risultati dell'autopsia, ma dai primi rilievi pare che il sangue dell'uomo fosse denso come resina.» «Avete capito che cosa ha provocato l'addensamento del sangue?» Tom sfilò una lente di ingrandimento dalla tasca e cominciò a osservare con cura le immagini. «È la prima volta che sento parlare di un fenomeno del genere.» «Anche il nostro coroner, se ti può sconsolare.» Adrian Bennett scosse la testa. «Siamo ancora in attesa dei risultati dell'autopsia. Pare che il sangue sia entrato in ebollizione provocando la sua coagulazione immediata. Ma come puoi notare, il corpo non è stato esposto a alcuna fonte di calore. La pelle è intatta e non è ustionata.» Tom diede una rapida occhiata ai risultati dei rilievi. Poi si avvicinò al cerchio tracciato a terra, non prima di essersi infilato un paio di guanti in lattice. «Un pentacolo», disse quasi a se stesso. «Sembrerebbe un rituale di evocazione.» «Sul leggio non c'era nulla?» chiese poi, piazzandosi al centro del circolo per tentare di ricostruire la posizione di Blake. «No, niente. Perché?» Continuò a guardarsi intorno perplesso. «Sembra che Blake fosse intento in un rituale di evocazione. Vedi, il cerchio con la stella a cinque punte, chiamato pentacolo, forma una sorta di barriera, tiene all'esterno l'essere evocato e impedisce che esso si ribelli all'evocatore e lo aggredisca. E tu credi veramente che...» «Adrian, non ti sto dicendo che qui dentro sia avvenuta veramente un'evocazione. Diciamo che ci sono tutti gli elementi, per così dire, classici di un rituale di questo tipo.» Un attimo di sospensione. «Tutti tranne uno.» «Quale?» «Il libro. Cosa serve un leggio posto davanti a un circolo se non a sostenere il libro con le formule?» «Questo farebbe pensare che non fosse solo nello studio e che qualcuno l'abbia sottratto. Però sarebbe l'unico indizio in questo senso. I rilievi finora sembrano indicare il contrario.» «Non lo metto in dubbio. Tu hai chiesto il mio parere, io te lo sto dando. Sta a te trarre le conclusioni finali.» Uscì dal circolo e cominciò a dare un'occhiata ai testi sugli scaffali. Qui la selezione era decisamente diversa. Trattati di cabala, demonologia, magia nera in edizioni antiche e moderne, in almeno 5 lingue diverse. Ne sfogliò alcuni. Su diverse retrocopertine c'era stampigliata la scritta «Rose Antique Books», seguita da un indirizzo di Georgetown. Gli cadde lo sguardo sul tavolino, un diario aperto e spostato di lato. «Hai già dato un'occhiata a questo?» chiese, prendendolo in mano. «Credo che sia pane per i suoi denti. A parte qualche pagina qua e là, sembra scritto in una lingua che non ho mai visto.» In effetti, la parte centrale del diario era scritta in una lingua strana, che non si assomigliava a nessuna che avesse mai visto prima. C'erano due parole che l'aprivano, quasi fossero il titolo: Sirbenet Xe. Per il resto, solo le primissime pagine erano in inglese, oltre all'ultima, che aveva la data del giorno prima. «Tutto è pronto, ma io lo sono. Non ho alternative, e questo non mi aiuta neppure un po'. Ho studiato per mesi, ma mi sembra di essere come uno studente al suo primo esame. Mi sto a confrontare con un mondo che conosco appena, le cui leggi mi sfuggono. ma non ho scelta. Temo per la vita di Diana. Le parole enigmatiche si interrompevano così, senza aggiungere alcun particolare che potesse aiutarlo. Hai un'idea di chi fosse questa Diana? Blake ha una nipote, dalla quale ha ottenuto la custodia. Bennett prese i suoi appunti per consultarli. È stata affidata alle sue cure alla morte della madre, avvenuta immediatamente dopo la sua nascita. L'ispettore gli allungò una foto che aveva probabilmente sfilato qualche cornice. Diana era una bella ragazza mora, con la pelle molto chiara e dei luminosi occhi neri. Doveva avere circa 16 anni. L'avete già interrogata? Non sappiamo dove sia in questo momento, sospirò Bennett. A scuola dicono che si era sentita poco bene e che, visto che non riuscivano a mettersi in contatto con lo zio, l'hanno fatta riaccompagnare a casa. L'ultimo a vederla è stato l'autista dello scuolabus verso le 11 di questa mattina. Il suo identikit è stato diramato a tutte le pattuglie. Tom si guardò intorno con aria vagamente spaesata. L'amico attese qualche istante. Stai cominciando a farti un'idea di quello che può essere successo? Ma in genere in questi casi si tratta di persone disturbate, gente che legge una mezza dozzina di libri di magia nera e poi decide di imitare quello che ha letto. Però queste messe sataniche presentano rituali rozzi, inconsistenti. Quante le vittime sono dei malcapitati e basta, gente che finisce uccisa con un coltello, con un colpo in testa, per strangolamento. Non sembrerebbe questo il caso. Infatti, peraltro non c'è traccia di violenza, hai pensato a un veleno? Non di tipo conosciuto, almeno stando ai primi rilievi. Comunque le analisi tossicologiche sono ancora in corso. Magari una malattia rara? Dio lo volesse, sospirò Bennett. In quel caso un'indagine sarebbe chiusa ancora prima di iniziare. Il procuratore me ne sarebbe grato. Tom fece per ribattere qualcosa, ma tacque. Non condivideva la fretta di Adrian Bennett di archiviare il caso. Due poliziotti fecero capolino e chiamarono l'ispettore. Tom si attardò ancora qualche minuto nello studio. Poi si infilò il diario in tasca e si diresse verso il salotto. Vado a visitare questa libreria antiquaria, vediamo se riesco a trovare qualche informazione utile. L'ispettore Bennett gli rivolse solo un vago cenno di assenso.